Cielo di nanna, per solfeggio d'anima e nanna, nanna, nanna, anima do rata, solitari nella nata di una notte dell'anima. Rima mia nanna, scrivi love su pergamene, love, love, love, sempre love che scorga da una lacrima travolta in un filo biondo di fuoco, mentre tutto piove, piove, piove love, piove love, piove love, nanna. Di un amore d'amore, d'amore nato il giorno d'amore, d'amore, d'amore in sole ore, l'odore rimane di vanità di nanna, fragili e lebili nel loro essere effimeri, come 3D di vita di battiti d'ali d'effimera, storia perduta e maledetta e bellissima, panteggiata nella sua immagine dorata, l'oro del filo fauve di un pizzico di follia nell'anima soffio di nanna, nanna, nanna, lasciato dagli angeli del rock and roll in un fiato d'emozione folle, in un rito di fuggiasco amore, scappiamo da qui verso nidi d'amore fuggiaschi, sempre love che scorga da una lacrima stravolta in un filo biondo di fuoco, mentre tutto piove, piove.